Mase, Biazzi, a.k.a. Rizzed MC1, Dove sei? La mia ragazza si spacca, l'altra sera che pezza. Torna a casa sconvolta verso le 4:30. Si veste di corsa e non si specchia. Non va dal parrucchiere quando mangia, si morda la TV. Non ascolta le tattoo e la sera nello stereo gli ritrovi chef ragù. Parla come mangia, sempre vera e mai falsa. Di sabato non gli interessa di ballare salsa e merengue. I climi d'opinione no, non li sente. E spicca sempre in alto tra la gente. Non conosce i nomi di chi c'è il grande fratello. Nella testa non profumi ma un cervello. Il sesso è più bello sotto effetto limoncello. La gancia Barry White e Chardin nel ritornello. Le serate le passiamo al mare con la birra in mano. In sottofondo niente house, niente disco, solo il suono delle onde. E nel buio solo due lucine rosse, io più lei, se solo esistesse. Dove sei? Da adesso in poi ti cercherei. Dove sei? Incatenata dentro i sogni miei. Dove sei? Ti prego fatti viva se ci sei. Dove sei? Nel buio della notte, hear my prayer. Dove sei? Da adesso in poi ti cercherei. Dove sei? Incatenata dentro i sogni miei. Dove sei? Ti prego fatti viva se ci sei. Dove sei? Nel buio della notte, hear my prayer. Yeah. La mia ragazza un po' pazza, come si incazza, si scazza e non gliene fotte una mazza. Di stare offesa e di tenere accesa quella fottuta sensazione che rende l'aria più tesa. La mia ragazza mi dà amore a volontà e ride assieme a me per tutta la città. Non permette che l'orgoglio nasca in lei per dividere. Parliamone per due minuti e poi torna a sorridere. Non lascia che la società la riesca a influenzare. Sceglie con la propria testa chi vuole amare e sognare. È più importante di apparire. Ciò che per me, ciò che per lei resta da scoprire. Quello che so, quello che sa, quello che c'è nel cuore. Sia che sia giorno, sia che sia notte, noi faremo l'amore. Sin dall'inizio sto con te con tutti i miei difetti. Sarò sempre sincero, niente dubbi né sospetti. Ho atteso tanto tempo che avvenisse tutto questo. Sarò sempre me stesso e so che lei farà lo stesso. Dove sei? Da adesso in poi ti cercherei. Dove sei? Incatenata dentro i sogni miei. Dove sei? Ti prego fatti viva se ci sei. Dove sei? Nel buio della notte, hear my prayer. Dove sei? Da adesso in poi ti cercherei. Dove sei? Incatenata dentro i sogni miei. Dove sei? Ti prego fatti viva se ci sei. Dove sei? Nel buio della notte, hear my prayer. E questa notte voglio affianco a me una stella. Una che non la puoi guardare. E per quanto brilla sto buttato sulla sabbia. Una scintilla. C'è la mia ragazza al mio fianco, me la rulla. Sgrulla di dosso ogni sua preoccupazione. Sarò sempre per lei la sua prima tentazione. Tutto questo non è impossibile trovarlo. Ma tanto si sa, è inutile che parlo. E niente, senti che stavo così, perché prima stavo così. E stavi sfatto. Faremo l'amore. L'amore. Ha ha ha.